Bordo Campo di Dario Ricci. Speciale Vancouver 2010. Giorgio Di Cetta davanti, ma Giorgio va a vincere la medaglia d'oro. Giorgio Di Cetta, medaglia d'oro. Giorgio Di Cetta ha vinto la 50 km a tecnica libera. Ultima medaglia individuale di questi giochi, l'Italia conquista la quinta medaglia d'oro. Una grande soddisfazione, e per me era anche questo un sogno. Mi hanno comunicato che ero stato scelto come portabandiera, una grande soddisfazione e ripeto un grande onore non solo per me, per tutta l'Italia. Veramente sono onorato di avere questo compito di portare la bandiera ai giochi di Vancouver 2010. È lui, Giorgio Di Cetta, l'uomo che lega il sogno olimpico di Torino 2006 a quello di Vancouver 2010. A 37 anni, Giorgio, fratello della pluricampionessa olimpica Manuela, vincitore a Torino dell'oro nella 50 km e di quello nella staffetta 4x10 nel fondo, sarà il portabandiera azzurro nella cerimonia d'apertura dei 21esimi giochi olimpici invernali, dal 12 al 28 febbraio in Canada. È proprio dallo sci di fondo che inizia il viaggio di A Bordo Campo speciale Vancouver 2010, che fino a sabato 6 febbraio ci accompagnerà verso i giochi canadesi, che scatteranno appunto il 12 febbraio. E ora andiamo subito in pista. L'Italia difende sulle nevi e il ghiaccio canadese il ricco medagliere conquistato a Torino, 5 ori e 6 bronzi. Corazzata della nostra spedizione, la squadra di sci di fondo. A Torino arrivarono i trionfi nella 50 km maschile e nella staffetta, con Di Cetta, Piller-Kotter, Zorzi e Valbusa. Il bronzo nella staffetta femminile, Follis confortò la Sabina Valbusa e la grande Gabriella Paruzzi, quello di Piller-Kotter nell'inseguimento. Giorgio Di Cetta già sogna uno storico bis. Gli obiettivi sono quelli di riuscire a ripetersi, anche se sarà veramente difficile, però provare non costa nulla e ci saranno, credo, almeno 4 buone opportunità per fare altrettanto bene alle Olimpiadi. E speriamo di partire col piede giusto, avere anche un pizzico di fortuna al momento giusto per raggiungere poi, come a Torino, grandi risultati. Tra le donne la punta è Arianna Follis, campionessa mondiale nella sprint tecnica libera. La piemontese prova a gestire così il peso del pronostico. Già responsabilizzarsi troppo adesso sarebbe forse eccessivo, perché spendi tante energie e arrivi là scarico, quindi abbiamo parecchie gare fino a febbraio, pensiamo a queste gare, gara dopo gara, e dopo l'imminenza dei giochi di Vancouver penseremo a quelli. Pietro Piller-Kotter invece a 35 anni andrà a caccia a Vancouver dell'unica gemma che manca al suo palmarès, l'oro olimpico in una gara individuale. Il campione di Sappada conta anche sul fuso orario per fare del fondo uno sport davvero popolare in Italia. Sarà un'Olimpiade all'insegna, se non altro, del fatto che l'Italia ci seguirà quasi in prima serata, e quindi questo è un aspetto che gioca, direi, molto a nostro favore in quanto a sport minori. L'ultima l'abbiamo fatta in Italia e quindi siamo stati estremamente gratificati da questo, perché poi tra l'altro abbiamo portato anche parecchi risultati. L'attenzione a noi riservata non è stata comunque eclatante, ed è questa l'unica pecca che c'è, se vogliamo, perché noi piacerebbe che il nostro sport venisse visto sempre di più e sentito sempre di più e quindi praticato sempre di più. Noi i risultati ci proviamo sempre a metterli, e incrociando le dita e facendo i debiti scongiuri speriamo di poterlo fare anche in queste Olimpiadi, anche perché lo sci di fondo in tante edizioni è stato sempre una delle discipline che ha portato maggiore soddisfazione al movimento olimpico. Noi ci auguriamo di poter continuare su questo trend. Insomma, tanta attesa, tante aspettative per gli azzurri del fondo. Ci ha raggiunto al telefono Silvio Fauner, indimenticabile protagonista della staffetta d'oro a Lillehammer 1994 e oggi CT azzurro. Benvenuto a bordo campo, speciale Vancouver 2010. Allora Silvio, partiamo dalla neve che troverete in Canada. Nel fondo i materiali, lo sappiamo, sono decisivi. Come state lavorando sotto questo profilo? Diciamo che adattare materiale alla neve canadese non si può fare, è impossibile. Purtroppo speriamo che mi sbagli, ma purtroppo dovremo aspettarci non delle bellissime cose, in quanto Vancouver è vicino al mare, quindi influisce molto tutte le perturbazioni che arrivano e che cambiano in maniera repentina. Abbiamo visto, a parte l'anno scorso, che abbiamo trovato 7 giorni di condizioni completamente uguali dal primo all'ultimo giorno, di sole, di bel tempo, di freddo, però hanno già detto che era una cosa eccezionale, se no dovremmo aspettarci dei repentini cambiamenti di tempo nel giro anche di poche ore. Ci presentiamo a Vancouver 2010 con il fondo come grande ammiraglia della nostra spedizione. Difendiamo i 2 ori più prestigiosi e 2 bronzi altrettanto importanti. Da questo punto di vista sentite la pressione di essere gran parte delle speranze di medaglie azzurre? Ma la pressione, questo sicuramente si sente. Siamo usciti dalle Olimpiadi di Torino con dei risultati incredibili, inaspettati direi. Riuscire a eguagliare quei risultati sarà comunque molto, molto, molto difficile, anche perché gli atleti che hanno, a parte una longa, ma gli atleti che hanno vinto medaglie a Torino sono poi gli stessi che ci sono anche adesso, con l'unica eccezione che purtroppo per noi hanno 4 anni in più. Con chi andremo a giocarci le medaglie? Il parterre degli avversari sicuramente amplissimo. Ma nel settore femminile ci sono delle singole atlete, non vedo grandi squadroni, ma sono delle singole realtà. Possiamo mettere sicuramente la polacca Kovalcic, la slovena Majdic, le due norvegesi con la Bjørgen e con la Steira, la svedese Kalla e le due finlandesi Kuitunen e Saarinen. In campo maschile anche qua sono delle singole realtà, con lo svizzero Colonia, con il ceco Bauer, con il norvegese soprattutto Nortung e poi 1 o 2 svedesi Elner e poi tutto il gruppo degli sprinter norvegesi. Fra poco, ve lo preannuncio, arriverà a farci compagnia un'altra leggenda del nostro sci di fondo. Ora però apriamo una parentesi sul biathlon, disciplina che unisce al fondo l'abilità nel tiro con la carabina. Poche speranze di medaglia in realtà per gli azzurri, ma a Vancouver ammireremo un campione eccezionale, il norvegese Ole Einar Bjørndalen, cui dedichiamo questo ritratto. Einar Bjørndalen, nu är du lika med en annan stor man, med Ingemar Stenmark. È lo Stenmark del biathlon e non lo dice solo la fama, sono i numeri a incoronare Ole Einar Bjørndalen come il più grande biatleta della storia. A 36 anni il campione norvegese ha inanellato 91 vittorie in Coppa del Mondo, proprio come il leggendario svedese dello sci alpino. Ma oltre alle 6 coppe vinte, è il resto del palmarès a far paura. Da Nagano 98 a Torino 2006, Bjørndalen ha conquistato 5 ori, 3 argenti e 1 bronzo alle Olimpiadi, mentre ai campionati del mondo il suo bottino è di 14 ori, 10 argenti e 9 bronzi. Iniziato al biathlon dal fratello maggiore, Bjørndalen è un ottimo fondista, ha vinto una gara di Coppa del Mondo anche nel fondo e vuole cancellare a Vancouver la beffa subita a Torino 2006, quando vinse appena 2 argenti e 1 bronzo. E dire che il norvegese ha l'Italia nel cuore, residente a Dobbiaco, è sposato con Nathalie Santerre, campionessa azzurra proprio di biathlon. Mesdames et messieurs, la femme olympique. Ladies and gentlemen, the Olympic flame. Signore e signori, la fiamma olimpica. Come promesso, chiusura in grande stile con la nostra ospite d'onore, Stefania Belmondo, 10 medaglie olimpiche, tra cui 2 ori tra l'88 e il 2002. Allora Stefania, che Olimpiadi dobbiamo aspettarci a Vancouver? Ma io la mia prima Olimpiade l'ho fatta in Canada, a Calgary, nell'88. Sono passati tanti anni, però ricordo la bellezza di quel paese, la bellezza dei posti, la larghezza di quelle piste già allora, la facilità anche proprio nel trovare delle piste belle, dure, larghe. Poi vabbè, per quanto riguarda l'organizzazione, ma io sono convinta che tutte le Olimpiadi sono comunque ben organizzate. È ovvio che quando vai lì il paese dà il massimo, cerca di dimostrare il meglio di se stesso e di tirar fuori veramente delle cose grandi, e sono convinta che, come è stata grande l'Olimpiade di Torino 2006, perché è un'Olimpiade bellissima e indimenticabile, sarà grande questa Olimpiade, e sono state grandi le Olimpiadi a cui ho partecipato io. Ti chiedo proprio un ricordo di quella Calgary 88, che fu per noi italiani anche la grande Olimpiadi di tomba, ma ecco, essendo stato i tuoi primi giochi, immagino che ci sia un'immagine almeno particolarmente viva nella tua memoria. Sì, ho un'immagine che non dimenticherò mai. Avevo 19 anni, sono andata lì come riserva, poi ho partecipato a tante gare, tra l'altro sono partita nella prima gara come numero uno, quindi ho aperto le Olimpiadi. Però ecco, un'immagine che non dimenticherò mai è che ho assistito alla premiazione di 3 atlete russe sul podio della 10 chilometri, le guardavo e con un'ammirazione particolare, e mentre le guardavo che saliva la bandiera del loro paese, dicevo: ecco, anch'io un giorno voglio salire su quel gradino del podio. Beh, direi che è sogno che si è realizzato, ma nel cuore restano più le medaglie olimpiche o quell'emozione che hai provato a Torino 2006 come colei che in casa ha acceso il braciere olimpico? Ma io lo dico sempre, allora, il fatto di vincere le medaglie olimpiche è una cosa che me la sono guadagnata facendo 10.000 chilometri all'anno, tanti sacrifici, tanta fatica. L'accensione del braciere, l'ultimo tedoforo, è stato un premio che, grazie anche al voto di tanta gente, grazie anche al desiderio magari degli organizzatori e così via, che mi hanno premiata. Però ripeto, sono due emozioni fantastiche e indimenticabili. Grazie a Stefania Belmondo per essere stata con noi a Bordo Campo, speciale Vancouver 2010. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 13.15, domenica alle 14.30 invece abituale appuntamento con A Bordo Campo e le sue piccole grandi storie del mondo dello sport. Un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.